24 Mattino. Simone, buongiorno, ma perché mettete sempre in evidenza i lati negativi di Roma? Ogni tanto mettete anche in evidenza i lati positivi, perché la Raggi ha fatto tante cose qua a Roma. La ministra Azzolina è molto brava sul piano tecnico, viene dal mondo della scuola, di recente ha ricevuto l'idoneità al concorso dirigente scolastico, le cose le sa, non lo mettiamo in discussione. Il problema è la sua caratura politica, che in questi mesi ha dimostrato di essere zero. Caro Simone, la realtà è che stiamo facendo un sacco di esami e accertamenti completamente inutili. È necessaria una riforma completa della medicina del territorio. Oh, interessanti tutti e tre, gli WhatsApp dei nostri ascoltatori, a partire dall'ascoltatore che ci parla di Virginia Raggi, di quello che ha fatto per Roma. Io sinceramente non... sono solamente in parte in grado di giudicare. Quello che posso dire, e adesso ci arriveremo a questa vicenda dei nuovi camion dell'AMA che non riescono ad agganciare i cassonetti, quello che posso dire è che, insomma, per quanta buona volontà ci metta un'amministrazione, sulla quale buona volontà non ho alcun... non mi sento di avere alcun dubbio, poi ci sono dei meccanismi anche interni a volte alle amministrazioni che non funzionano. Aggiungiamoci poi però che i vertici delle aziende municipalizzate non è che li sceglie quello giallo dei Teletubbies, li sceglie il Comune di Roma, quindi il Comune di Roma lo sceglie la guida politica del Comune di Roma, e quindi poi le riflessioni devono passare anche da questo, naturalmente. Poi c'è certo una difficoltà che hanno anche i governi nazionali, nel fronteggiare determinate burocrazie, determinati ostacoli e determinati blocchi. Però ormai l'esperienza amministrativa della Raggi è discretamente lunga, mi sembra. Sulla questione Azzolina della ministra non vorrei entrare nemmeno in quella, insomma, non posso essere un giudice io della caratura politica e dall'altro lato della preparazione. Mi pare più in generale che la questione scuola sia stata presa sotto gamba in questo periodo di Covid, un po' da tutti. Sia dal governo, che però era quello che doveva agire, sia dall'opposizione, che poca voce ha messo su, non solo sulla scuola, ma anche più in generale sui diritti di bambini e adolescenti. Ci si è riflettuto poco. E in questo va dato atto a l'unica persona, una delle poche persone che ha fatto sentire la sua voce, è la ministra Bonetti, però un po' predicando nel deserto, perché avendo un ministero senza portafoglio, quello della famiglia, poco ha potuto fare. Infine la questione degli esami inutili, grande tema, come ha sentito, ne abbiamo parlato anche prima con Davide Croce, direttore del Centro sull'Economia e il Management in Sanità, e anche quella è una questione, così come è una questione, ricordate che ne parlammo un po' nei mesi scorsi, così come è una questione il tema di chi prenota le visite o prenota gli esami e poi non si presenta, tanto che in alcune regioni vengono multati questi. Adesso questo problema diventerà ancor più cogente, evidentemente. C'è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, o se volete scrivere naturalmente via SMS o WhatsApp. Per questa seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, alle 7:23 minuti di venerdì 3 luglio, con i giornali che vanno veramente in ordine sparso oggi, perché se il Corriere della Sera ha sì come titolo di testa, ossia quello più in alto, l'incontro tra Conte e Zingaretti, un vertice del chiarimento che non fa però decollare il decreto semplificazioni, ha però a centropagina come titolo forte la vicenda dei Marò e il processo in Italia. La Stampa apre con un'intervista a Matteo Salvini che non molla e chiede il voto a settembre. La Repubblica sul conto del virus dal lato del lavoro, lo pagano i più giovani. Apertura economica anche per il giornale, che parla della beffa, o di politica economica, e parla della beffa delle tasse, dalla ristrutturazione della casa al taglio dell'IMU passando per il bonus vacanze. Sono finte agevolazioni, dice il giornale. Il Fatto Quotidiano, che torna ad aprire sulla vicenda Berlusconi, ecco le prove della bufala pro Caimano. Anche il quotidiano nazionale sceglie l'apertura economica. Il coronavirus ci presenta il conto, torna a crescere la disoccupazione, boom di sfiduciati. Avvenire invece, e ci arriveremo, apre con una sua inchiesta. Ecco i fondi segreti dati ai sindaci libici per bloccare i migranti fin dal 2017. Di migranti ci parla anche il Manifesto. Da 5 giorni in attesa l'Ocean Viking con 180 migranti. Anche Libero invece ci porta sulla vicenda di Berlusconi. Difendere Silvio diventa un reato. Chi ha testimoniato contro la condanna di Berlusconi viene indagato. La politica in apertura del Messaggero. La tregua non sblocca gli appalti. E infine il Sole 24 Ore che ci porta su Genova, sul nodo ligure e genovese delle strade. Ci arriveremo, è il tema che affronteremo poi alle 8:20, parlando non solo di Liguria ma più in generale di quello che succede sulle autostrade italiane, tra l'altro in un'estate che vedrà coloro che partono partire prevalentemente in macchina, e quindi questo tema dei lavori e della messa in sicurezza sarà sicuramente un elemento di cui discutere, e alla vigilia di un fine settimana che si presenta ancora una volta complicato. E l'apertura del Sole 24 Ore, caos Liguria, fuga dal porto di Genova. E questa è l'apertura del Sole. Voglio iniziare, poi arriveremo a Roma, non vi preoccupate, arriveremo a questa vicenda dei camion dell'AMA. Voglio iniziare però da quest'inchiesta di Avvenire, ancora una volta è nello scavo che ci porta in Libia e ci porta ancora una volta nelle pieghe di quell'ambiguità che sono i nostri rapporti con quel paese, quell'ambiguità che ci porta a, come in questo caso, a fornire soldi quasi di fatto a fondo perduto a una serie di municipalità libiche. Per cosa? Per ottenere un blocco delle partenze dei migranti. E dunque nello scavo ottiene dei documenti riservati che raccontano della trattativa, dice, tra i capi bastone libici e i funzionari italiani. A ogni pagina del fascicolo sono stampate le insegne della diplomazia italiana. La Farnesina, alla quale è stato chiesto un commento, non è in grado di confermare né smentire. Si chiama Progetti delle municipalità libiche. E qua c'è tutto il gioco di trattative tra i sindaci libici, a volte tra i capi tribù libici e lo Stato italiano, per ottenere del denaro. E Roma che tira da una parte, come è ovvio, e le municipalità libiche che tirano dall'altra. Qualcuno in Libia aveva preso l'Italia per un bancomat, ad esempio le tribù di Bani Walid. La richiesta Monster era di 85 milioni di euro. Alla fine Roma finisce per approvare 1,1 milioni. Oppure Maya e Sabrata. La prima, un sobborgo sulla strada tra Tripoli e la Tunisia, arriva a domandare 9 milioni in un colpo solo per mettere a posto mezza città. Gli emissari di Roma alla fine danno 400.000 euro. Più generosa Roma si mostrerà con la città di Zawiya, capitale delle partenze dei migranti verso l'Italia, quartier generale del contrabbando di idrocarburi. L'intera provincia è tenuta sotto schiaffo dalla milizia al-Nasr, quella dei fratelli Kashlav e dell'onnipresente guardacoste Bija. Il preventivo assegnerà a Zawiya 1,8 milioni 400 mila euro in più di quanto avesse chiesto la parte libica. E poi ci sono i soldi arrivati dall'Unione Europea alla stessa Libia, tutto questo senza che si sia arrivati né alla pace né ai diritti umani. Il punto però qual è? Non sono i soldi dati, è che sulla carta ogni centesimo di euro è controllato. In realtà, una volta presa la rotta libica, sapere davvero cosa ci facciano con i soldi diventa un rompicapo, racconta Nello Scavo. E visto che siamo sul tema dei migranti, ci sono altre due pagine sulle quali vi voglio portare, quella del Manifesto, la numero 5, pagina 5, con Carlo Lania, che ci racconta di quello che sta succedendo sulla Ocean Viking. Ve lo voglio segnalare perché questa rischia tra l'altro di diventare una discreta grana politica in una fase ancora una volta delicata per la maggioranza. 2 migranti che si gettano in mare e vengono tratti in salvo dall'equipaggio, altri 5 che minacciano il suicidio. Sta salendo la tensione a bordo della Ocean Viking, la nave della ONG europea SOS Mediterranei, che da 5 giorni attende di sapere dove e quando potrà sbarcare i 180 naufraghi recuperati in 4 diverse operazioni di soccorso effettuate tra Malta e l'Italia. 5 richieste alle autorità marittime italiane e maltesi per l'assegnazione di un porto, nessuna risposta tranne 2 negative. Siamo lasciati in un limbo senza nessuna indicazione su dove andare, denuncia l'ONG, e questa è pagina 5 del manifesto. Mentre invece La Verità ci porta su come sta andando questa benedetta sanatoria che tanto ha fatto discutere la maggioranza, e la notizia è quella che in fondo già sapevamo: non sta andando bene dal punto di vista dei numeri, non solo, ma sta riguardando solo in minima parte i lavoratori dell'agricoltura, come forse prevedibile. Scrive Patrizia Floder Reiter: su 80.300 domande arrivate al 30 giugno, su, l'annuncio iniziale era 600.000 immigrati irregolari da sanare, alla fine ridotti a 220.000, insomma, al 30 giugno sono arrivate 80.300 domande. Quelle provenienti dal settore agricolo erano 8.200 più 54 dal settore pesca, mentre quelle relative a colf e badanti raggiungevano la cifra di 61.000. Ora, senza nulla togliere al lavoro duro e prezioso, scrive Patrizia Floder Reiter, al lavoro duro che queste persone svolgono nelle nostre case per i nostri anziani o disabili, perché non è stato detto chiaramente fin dall'inizio che la sanatoria era stata pensata per far scomparire questo lavoro nero? E dunque il tema immigrazione, che mi pare tornare almeno in parte, a giudicare da un po' di pagine dei giornali, mentre resta aperta a Roma la questione della raccolta dei rifiuti. E sì, insomma, ci saranno stati sicuramente dei miglioramenti arrivati con la giunta Raggi, però fatto sta che, come ci racconta Francesco Pacifico a pagina 36 del Messaggero, in alcune zone della capitale siamo da capo a 12. Salario, Balduina, Pezzi di Prati, Centocelle, Trigoria, zone che registrano ritardi nella raccolta e fanno temere nuove emergenze. Tra le cause cosa c'è? C'è questa storia dei nuovi camion. I nuovi camion fiammanti, capaci di compattare anche 27 tonnellate di rifiuti in un colpo solo, ma troppo avanzati per gli obsoleti cassonetti di Roma. Neppure sono arrivati nel disastrato parco mezzi di Ama che i nuovi 42 camion CSL si scoprono meno utili per la causa. Lavorano a mezzo servizio perché funzionano di fatto a pieno regime solo per le operazioni di raccolta differenziata, mentre sono poco utilizzati per quella del tal quale, la spazzatura indifferenziata che va nel sacco nero, che nella capitale però è più della metà di quanto i cittadini gettano nei secchioni. Quindi fanno il loro giro per la differenziata, poi ritornano in deposito e ovviamente non si possono più utilizzare questi, i camion nuovi comprati dall'AMA. Se vediamo un attimo se abbiamo tempo e se ve la recupero, no, non abbiamo tempo di passare di darvi altro. Chiudiamo con l'AMA e andiamo alla pausa, poi ci ritroviamo tra un attimo con Paolo Mieli e andremo a tutte le vicende politiche, partendo da questo l'imperatore Vincenzo De Luca, che, stando al sondaggio di Roberto Dalimonte pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, è al 65% e pesca voti anche dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. A tra un attimo. Mattino. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Te lo ricordi questo De Luca nelle settimane scorse? Me lo ricordo e capisco benissimo perché tu hai riproposto questo auto. Perché il lanciafiamme è pronto anche per i suoi avversari politici, stando al sondaggio di Dalimonte sul Sole 24 Ore oggi. Guarda, io leggo sempre gli articoli di Roberto Dalimonte perché è un politologo molto acuto, molto intelligente, molto bravo, ma oggi mi ha lasciato veramente a bocca aperta, perché da quello che leggo sul Sole 24 Ore, pagina 9, De Luca è al 65% nella regione Campania, imbattibile, i suoi avversari sono poco più del 20%, cioè il suo avversario Caldoro, e fa una riflessione da Limonte sul fatto che ci sono ormai in alcune regioni, che l'altro è Zaia nel Veneto, certo, che grazie al comportamento, anche in virtù del comportamento, per carità, c'è cioè tutto il resto, in virtù del comportamento in questi mesi del Covid, ormai hanno un successo enorme, davvero enorme. De Luca ha 20 punti in più di quelli che i partiti che lo sostengono, a parte che lo sostengono tutti, anche Mastella, sì, è corso in suo sostegno, ma hanno 20 punti in più, a 20 punti in più di quelli dei suoi partiti di coalizione. E questo significa qualcosa, significa che nel paese, mentre il vertice del paese lì paralizzato, adesso ne parleremo brevemente, con norme che non si riescono a fare, notti che sì, si inseguono ad altre notti, stanno venendo fuori dei leader di carattere locale che, insomma, che godono di un consenso che nessun altro leader sì, nazionale ha, soprattutto sì, adesso che si è un po' appannata la stella di Salvini. Bisognerà tenere conto di questa fase. Assolutamente. Tanto si è parlato nelle settimane scorse, poi lui ha smentito, di un Bonaccini che aspirava alla guida del Partito Democratico, quindi anche da quel lato, no, ci sono degli elementi interessanti. Anche perché la svolta di quest'anno, cioè, diciamo la verità, questa maggioranza era in panne. Se non avesse vinto Bonaccini in Emilia, grazie anche lì alla sua personalità, Bonaccini non era solo i voti del centro-sinistra, era lui stesso, e quindi tre nomi, Bonaccini, Zaia, De Luca, sta venendo fuori una classe dirigente capace non solo di far chiacchiere a Roma, ma di raccogliere consenso, il consenso in proporzioni notevoli, e in qualche caso quello sì, segnalato oggi da Dalimonte sorprendente. A Roma nel frattempo, come avrei visto, sì, solito balletto, eterno rinvio sulle semplificazioni, leggo a pagina 5 del Corriere della Sera, articolo di Enrico Marro, i veti su appalti e abusi d'ufficio, non si riesce a fare questa norma di tipo come quella per il ponte Morandi perché ci sono obiezioni del PD. Nel frattempo il paese è, l'hai visto il titolo del Sole 24 Ore, è stata caos Liguria, furia, sì, fuga dal porto di Genova, denuncia di Cosco, colosso dello shipping, tra code, ritardi, caos mai visto. Sì, c'è anche un'intervista. Poi sull'abuso d'ufficio c'è l'intesa, ma è ancora lite sulle grandi opere, Negri e Santilli. Insomma, il paese fa fatica. Per sì, fortuna, diciamo, se lo consideriamo una fortuna, ci sono dei leader molto votati e che parlano un linguaggio semplice e comprensibile come quello del lanciafiamme da cui siamo partiti. Sempre in politica, ieri c'erano sospese due cose, te lo dico molto brevemente. Sì. Una, Berlusconi, che aveva fatto un'intervista in cui faceva capire che lui era disponibile per un governo diverso dall'attuale perché non ci fossero i 5 Stelle, devo dire, non si capiva bene. No. Chi avrebbe dovuto fare questa maggioranza? Comunque se l'è rimangiata, ecco, se sì, l'è rimangiata, ha detto no, io resto in centrodestra. E Conte ha avuto un incontro con Zingaretti in cui lo ha rassicurato, gli ha detto guarda, io sono contento se riesce a vincere nelle regioni, anzi ha fatto un appello obliquo ai 5 Stelle di votare per i candidati di Zingaretti, i 5 Stelle se ne sono risentiti, ma sì, mi sembra che tutto ruoti. Sì. Intorno a una... Sì, tra l'altro ti aggiungo, Paolo, no, che ci sono una serie di difficoltà al Senato e che sono delle difficoltà proprio ad avere la maggioranza da parte del governo, tanto che ieri il titolo del quotidiano nazionale era Conte vende la pelle dell'orso, oggi ci torna Libero a pagina 5. Che cosa succede? Per avere i voti della SVP, per il partito, no? Il partito Altoatesino, l'SVP chiede: ci dovete lasciare la libertà e la possibilità di abbattere i lupi e gli orsi. E quindi, insomma, questo per dare un po' la misura di qualche difficoltà che c'è all'interno della maggioranza. Ti porterei negli Stati Uniti, negli Stati Uniti e poi in Austria. Visto che siamo, perdonami, in Alto Adige, andiamo prima in Austria, dove in Austria Austria è clamorosa questa cosa dell'Austria, dillo. Sì, praticamente è scattato un nuovo lockdown, o quasi. Insomma. Sì, per le scuole è scattato un lockdown perché hanno trovato un cluster e purtroppo questa vicenda austriaca ci dice molto anche del nostro futuro, nel senso, facciamo un punto sul nostro futuro, anche qui brevissimo. Ci sono stati degli incontri smodati alla fine delle partite così, e non si è avuto un effetto Covid, per cui il paese è portato a pensare che le norme che regolano il distanziamento sociale sono eccessive, perché sono state fatte delle grandi baldorie, delle grandi movide e non si è visto nulla. Però l'Austria ci insegna che appena scatta un Covid, come questo, cioè si trova un focolaio, immediatamente si deve ricorrere a provvedimenti estremi. Sì, hanno riaperto le scuole, devono chiudere immediatamente e fare un grande contenimento. E fai bene a mettere insieme gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti vivono qualcosa di analogo, ovviamente moltiplicato per un milione. Nel senso che hanno un record di contagi, probabilmente la California adesso sta rientrando in regime di lockdown, però con questa tecnica di lasciare un po' tutti liberi, di muoversi a scacchiera, l'economia ha ripreso il volo, l'economia americana, l'occupazione, incredibilmente è il primo paese che riprende a correre. Ci sono articoli su tutti i giornali stupiti, io ti segnalo quello del Sole 24 Ore, e sono cose da che forse può essere anche questo una risposta al Covid, mettere nel conto molti contagiati, non troppi morti, perché ormai i rimedi per non far morire le persone ci sono, e garantire una ripresa economica. Sì, per quanto ho già detto, l'articolo di Marco Valsania. Ti confermo Valsania. No, perché quello cambia accento ogni giorno. È così. Valsania è così. Gli piace cambiare. Non si può fare in questo modo. Comunque, usa crescita in attesa del lavoro, ma il rischio di chiusure c'è ancora. Traffico. Mattino. E allora i Marò, eccoli, in apertura del Corriere della Sera, cioè il titolo più forte, insomma, non in apertura, però il titolo più forte della prima pagina: andranno a processo in Italia, riconosciuta l'immunità. Girone parla, dice: dopo 8 anni ritorniamo liberi e registriamo, caro Paolo, un confronto tra ex ministri degli esteri. Uno sul Corriere della Sera. Radicale, tra l'altro. Sì. Adesso procediamo. Innanzitutto loro tornano liberi, nel senso che saranno giudicati in Italia. La Corte Permanente di Arbitrato, a cui si è ricorso, è un'organizzazione internazionale fondata addirittura nel 1899, che per dirimere le questioni tra gli Stati, Girone e La Torre, i due Marò, dicono che siamo liberi, finalmente possiamo parlarci, perché in questi anni era stato vietato anche di parlare tra di loro, e tutti gioiscono. Ieri sera si è presentato il ministro degli esteri di Gennaio in televisione vantandolo come un successo personale. Emma Bonino, sulla terza pagina del Corriere della Sera, dice: no, il successo è mio, quanta fatica, fu giusto volere l'arbitrato, io e il mio braccio destro di Robland escogitammo questa scelta, ma come tu dicevi, su Libero, il suo predecessore, l'ex ministro Terzi di Sant'Agata, anche lui oggi è d'area radicale, dice: ma che pasticcia i tempi della Bonino, la via giudiziaria era migliore da subito, ma il governo Letta preferì la strada degli 007, degli scambi. Lui si dimise per Marò, per i due Marò, Terzi di Sant'Agata, e dice che lui ha escogitato la soluzione, ma la Bonino dopo di lui ha combinato dei pasticci. Ci vorrebbe Marco Pannella che dirimesse la contesa, e siccome negli ultimi anni non aveva simpatia per la Bonino, insomma, aveva questioni personali, di carattere, così, secondo me oggi darebbe ragione a Terzi di Sant'Agata, ma mi prendo io la responsabilità. La responsabilità di comunque di c'è dirlo. Qualcosa che non capisco, perché allora noi, la Corte ha detto che noi spetta all'Italia giudicare i Marò, però bisogna risarcire Deli per la morte dei due pescatori. Ora, chi stabilisce come, che tipo di processo si fa? Cioè, se lo facciamo noi, stabiliamo noi quanto risarcire per la morte dei due pescatori? È stato fatto anche un conto approssimativo, ma non mi sembra molto regolare. Se venisse fatto a noi una volta che due Marò americani, facciamo un caso perché è già accaduto, provocano la morte di due cittadini italiani, e si stabilisce che questi, va bene, vengono giudicati in America, noi già alzeremmo la voce, ma in più che sono loro che stabiliscono anche quanto vengono risarciti i cittadini italiani, secondo me ci potremmo trovare, come nelle condizioni di Terzi di Sant'Agata e Bonino, cioè di litigare per una cosa che abbiamo sostenuto utile ai tempi dei Marò, ma non utile quando tocca a noi. Insomma, è ancora un pasticcio, però felicitazioni per Girone e la Torre che se la sono cavata, mentre invece stiamo ancora lì ad alzare la voce con l'Egitto, indecisi se ritirare o no l'ambasciatore per il caso Regeni. Ieri Fico, il Presidente della Camera, ha di nuovo urlato la sua indignazione. Sì, ha detto che la decisione, che il come si sono comportati gli inquirenti egiziani, un cazzotto all'Italia. Ti vorrei portare in Turchia, Paolo, siamo quasi in chiusura, adesso parleremo anche un attimo del premio Strega, perché tu sei in giuria. Guarda, qui devo fare i complimenti a Andrea Riccardi, perché questa vicenda, credo che stai parlando del Santa Sofia. Di Santa Sofia, certamente. Di Sofia, che secondo quello che ha annunciato Erdogan tornerà a essere moschea. È una questione complicatissima, perché ormai era stato deciso di trasformarla in un museo, proprio perché per non dar luogo a scontri tra religioni, quello di ritrasformarla in moschea crea una rogna internazionale. Già la Russia e tutti i paesi che ortodossi protestano, dicono che è una indecenza, e quindi sembra una vicenda di cultura e museale, ma è una bomba atomica. Leggete la pagina 19 del Corriere della Sera, l'articolo di Andrea Riccardi, perché è una nuova questione che mette davvero in discussione l'autocrate Erdogan. Ma il premio Strega? Il premio Strega, io a quello volevo arrivare. Tu eri in giuria, tra l'altro, caro Paolo, no? Sì, certo, sono giurato del premio Strega. Clamorosa la vittoria di Veronesi, peraltro molto annunciato, un libro splendido, Il Colibrì, perché è la seconda volta che vince il premio Strega. Prima di lui solo un altro scrittore, Volponi, l'aveva vinto due volte, ma per lui c'è un che di particolare, perché lo consacra ad autore più importante della sua generazione, credo che abbia circa 60 anni, poco più di 60 anni, e lui ricorda: contro di lui ha corso Gian Arturo Ferrari, che era il responsabile della Mondadori quando lui, Veronesi, che era uno sconosciuto 35enne, lasciò la Mondadori perché era andato al potere Berlusconi. Pensa alle bizzarrie. Sì. Andò alla Bompiani, lì vinse il suo primo premio Strega, un romanzo famosissimo, da cui è stato tratto un film, Caos Calmo, e adesso l'ha rivinto, e quindi si trovano in un incrocio, quei bizzarri incroci, Gian Arturo Ferrari, potente capo della Mondadori di allora, che ha scritto un memoir, un libro quasi autobiografico, che è arrivato quarto, e lui che ha vinto, si è preso questa piccola soddisfazione, anche se in un'intervista a Emilio Costantini sul Corriere della Sera dice che in quell'occasione Gian Arturo Ferrari si comportò benissimo. Piccoli gialli culturali, politici, però che possono divertire qualcuno che non vuole stare lì appresso a Zingaretti con le storie più grandi della politica. E via dicendo. Perché ridi? No, guarda che ne avremo ancora per me. Sarà lunga, Paolo, sarà lunga. Con quella casa a Santorini. Con la mia casa a Santorini e i miei quadri, nella quale sono appesi i quadri di Warhol, come per Pinotti. Sono a posto. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo la settimana prossima a lunedì. GR24, ci ritroviamo alle 8:20 con Maria Latella, parleremo di Genova, del nodo ligure delle autostrade, poi anche della manifestazione del centrodestra di sabato.